Lo chiamavano braciere e lo nominavano in continuazione. Prendilo, spostalo, riempilo. Era un grande piatto metallico che a turno ogni componente della famiglia riempiva con il carbone del camino. Lo si sistemava su un piano di metallo circolare e tutti ci appoggiavano i piedi per scaldarsi e non tenerli a contatto con il pavimento gelido. Mentre si mangiava, il braciere stava sotto il desco, che era un piano di rozzissimo legno poggiato su due cavalletti che fungeva da tavola. Dopo cena si spostava tra le sedie e ci si sedeva attorno e prima di andare a dormire lo si riempiva di nuovo e lo si portava ai piedi del letto. Non era difficile spostare un braciere, mi spiega Nina, perché c'erano sempre due manici ai lati e di solito erano i bimbi più grandi, anche i più coraggiosi, a spostarlo. Di fatto era il sistema di riscaldamento mobile della casa. Certe volte era sormontato da una struttura cilindrica a listelli di ferro sottile, modellati e intrecciati tra loro. Allora lì si stendeva la biancheria ad asciugare e quando faceva molto freddo, anche solo a riscaldare. E allora a me viene in mente la mia infanzia e il piacere che provavo per un pigiama messo a riscaldare su un termosifone nelle sere d'inverno. Posso solo immaginare che cosa sia stato per Annina indossare la sua biancheria fatta calda e profumata di carbone. Il braciere, insomma, era il totem della casa, uno spazio della casa ma anche del cuore, attorno al quale si stringevano tutti, si sedevano i grandi e tra le loro gambe i più piccoli, a raccontarsi di storie di persone vicine e di persone lontane, e di saperi e filastrocche e fatiche e vita dei campi.